Benvenuti da parte di Nilo alla puntata numero 0 della rubrica Alla radice del problema, questo programma che si spera andrà in onda su Libera al Caffè ogni domenica, con la replica poi su Radio LR, il podcast del mio blog network La Radice. Comincerei subito col parlare di un problema attuale della politica italiana, che è quello del bipolarismo. Poco tempo fa, su giornali appartenenti all'ala riformista della sinistra italiana si sono fatti dei proclami pro-centrismo davvero poco condivisibili e stravaganti. Nello stesso momento la CDL doveva difendersi dagli attacchi costanti dell'UDC per quanto riguarda il proporzionale. Tutto ciò fa pensare che questo sistema politico ricomincia ad essere pervaso da vecchie idee, da vecchie logiche di partito, e soprattutto con l'affermarsi di teorie neocentriste. La formazione di un terzo polo ad inizio estate sembrava quasi cosa fatta. Nello stesso periodo infatti si allontanavano UDC e Margherita dai rispettivi alleati. Poi tuttavia si è rientrato presto nei ranghi. Ora sembra imminente un cambiamento politico, che cambiamento in realtà non è. E soprattutto un cambiamento della legge elettorale. Al proporzionale folliniano il Presidente del Consiglio risponde con uno sbarramento al 10%, ed in pratica, oltre l'UDC, anche la Lega avrebbe dei problemi ad andare avanti. In un colpo solo, quindi, due piccioni con una fava, qualcuno potrebbe pensare, indebolire l'UDC e fare in modo che la Lega dica sì al partito unitario. Letta così sembrerebbe anche una mossa scaltra. Dubito però che i centristi stiano a guardare senza reagire. In realtà, a sinistra le cose non stanno meglio, con la Margherita e l'UDEUR sempre pronti a mettere il bastone tra le ruote ai prodiani e di esse, per impadronirsi di una leadership che in realtà non hanno. E in altre parole, se anche i riformisti poi guardano al centro, e se a destra i liberali sono a tutti gli effetti stati metabolizzati da un gruppo teocon, le cose si fanno davvero difficili. Le ultime affermazioni poi dell'Ocse danno un PIL italiano al più 0,2% di crescita, e quindi non al di sotto dello 0,6%, come si era detto in precedenza. Quindi notizia da prendere ovviamente con le molle, però anche con simpatia, visto le ultime beghe di palazzo con Banca Italia, che sicuramente non fanno ben sperare. In altre parole, o a destra o a sinistra sembra che le cose non cambieranno di molto. Una piccola differenza c'è, però è molto lieve. La CTL magari ha un programma, magari vecchio, sicuramente perfettibile, ma ce l'ha. La sinistra ancora stenta. Tuttavia sembra quasi inutile una nuova elezione, in quanto le parti in causa, il polo, la CDL e l'Unione, sembrano non avere requisiti giusti per poterci traghettare fuori dal disastro economico di un'Europa veramente zoppa. Bene, il tempo a disposizione è terminato, ci risentiremo la prossima puntata e con il secondo numero della rubrica su Libera al Caffè e su Radio LR. Un saluto da Nilo, a presto.